12-14, ma non esiste. Ma prendi 6 misurenti, devi misurare da dove c'è il primo occhiello, da lì dentro la spirale, devi appoggiare il metro lì e poi a dove va l'agganciata devono essere 7 cm. La prima cosa che sento 12-14, no. So che 7 non è 14. Comunque Claudio, a me tutti gli altri mi arrivano con segnale giusto, lui che mi arriva a basso di segnale, sarà 4 o 5 arriva. Sicuramente la zona è più favorevole per te, ma a me mi arriva così. Buonasera. Ma io ho voluto essere quello, come lo vedi tu, non è che è questione di essere favorevole a me. Aperto sei tu, aperto sono io per voluto. Sentiamo qua. Ciao, saluto il circolare. Papatango mi arriva a Santiago quasi 9. Scoppiato io. Comunque, ciao Tony. Ciao Riccardo. Ha detto che gli arrivi quasi Santiago 9. Mi senti tu, produttore? Santiago 9 quasi sì. La radio è diciamo un po' mezzo a quarremme, comunque un Santiago, cioè una radio 5 più o meno, va bene dai. Beh, Dupius. Gianni. Così controlla invece per antenna. Chi fa dai? No, perché gli ho detto controlla che stava ricevendo il produttore Santiago 4. Io invece a me mi dice lo ascolto Santiago 9 io, quindi però io ho produttore se lo vedo anche lui lo vede. Ciao Natalino, buonasera, avanti. K, rimango in QRX che sto al computer, vi ascolto dai. Va bene, faccia come crede. Chi è? Ciao Antonio, buonasera, ben ascoltato. Ok, avanti, Giuseppe, riprendi. Claudio, riprendo, adesso vi saluto che vado a farmi la corsettina qui, una mezz'oretta, e poi riprendo più tardi, dai. Salutoni a tutti, cordiali, e niente, dai, se coincide ci sentiamo dopo. Va bene Giuseppe, alle prossime allora, dai. Se coincidi a più tardi, io non lo so se dobbiamo andare a qualche parte, che lo so, mi sono già vesti un quarto, non lo so, vabbè, mi avviseranno, io sono chiuso qua in stanza. Avanti Tonino, riprendi, fai girare. Ok, ciao Giuseppe, buon pomeriggio, buon rispetto, ci sentiamo la prossima. Bene, bene, vabbè, Gianni Merlo, cioè Gianni Dottoruso, ha parlato la stessa. Riccardino, riprendi tu. A me mi arrivate tutti bene, quelli che mi arrivavano col segnale sono uguali, solo il portatore se mi arriva più basso. Ok, ciao, comunque sento anche a Barracuda che è entrato e io vado un attimo in Correx, per riprendere più tardi. Ciao Riccardino, Correx. Ciao Riccardi, ciao, sentiamo dopo, cosa hai detto già? Ho detto che gli altri mi arrivano sempre con lo stesso segnale di prima, solo il produttore se mi arriva a basso, non so il perché, per come, però è così. Gli altri cazzettolino mi arrivano a 9.30 come mi arrivava prima, tu lo stesso mi arrivi con segnale tuo, boh? Io non ho detto così scherzando, voglio accendere, può essere non favorevole a te, non lo so, però il produttore se lo vedi anche tu, quindi tutta questa differenza non capisco. Va bene, non ti preoccupare, già è tutto a posto. Il l'antenna che ha piazzato già nel dischetto non mi convince, 13-14 di taratura di spirale, io guarda ne ho montato a bizzeffa per me e per altri anche di Mantova, ma la taratura può variare, anziché 7, 6, anziché... 7-7-2, 7-3, ma qualche due l'ho montata anche a 5,5, proprio performante, 1-1 di stazionare, cazzo, ma 12-14 è un bel... A chi gliela l'ha detto? Lo ha anche detto tra me e me, 7 a 7 e mezzo, ho avuto anche io la Mantova, quindi è impossibile fatto tutto, dai. Sì, Tonino. Sì, Tonino, anche perché non tira poi la spirale, rischi di spezzarla, come fai a tirare la spirale il doppio? La spirale è fatta massimo per 7 e mezzo, a tirare proprio a 7 e mezzo, cazzo, se la tiri a 14 la stai mettendo dritta questa spirale, è troppo, c'è qualche problema. C'è qualche problema, o Gianni? Per me a te ti manca qualche elemento. Quanti metri è l'antenna? L'hai misurata? No, non devi entrare nulla, no. Non deve entrare niente. Il primo deve entrare 10 centimetri, non di più. Non di più, anche perché poi c'è la risega che lo mantiene. Attenzione che non ti sei dimenticato di mettere quei pezzi di alluminio che lo sostengono. L'hai messa troppo dentro, è troppo corta quell'antenna. Perché ti sei dimenticato di mettere gli spessori di sostegno, l'hai mandata troppo dentro e quindi l'antenna è troppo corta, è chiaro, devi rifare tutto, vero mio, se no non va bene quell'antenna, ecco perché c'hai il segnale, c'hai queste stazionarie, capito? Devi mettere degli spessori e deve entrare, l'antenna deve entrare 10 cm, Gianni, il tanto di chiudere la fascetta, perché altrimenti l'accorci, se accorci l'antenna sei fregato. Quanto vuole di lunghezza, ma l'innesti, capito? Se quello entra esce come vuole. E ti sei dimenticato di mettere quelle piattine rotonde che vanno a chiudere il tubo per bloccarlo, proprio del primo pezzo, è quello che comanda. Da lì parte l'antenna, se tu te ne sei andato dentro più di 10 cm sei fregato. L'hai accorciata, è chiaro che ti sei attendendo la spirale all'impicco, stai attento che la rompi, non a tirare molto. Adesso ho attaccato il Galaxy, sempre lo stesso segnale. Ho fatto per vedere se dipendeva dalla lampadina. Scusate, cuore X da parte mia. A dopo, ciao a tutti. Sì, ciao, non mi ha detto Marco se è nuovo questo, niente. Ciao a tutti. Ma ti arrivo bene già, sì? Sì, sì. Perfetto, allora va bene così. Ok, ciao ciao. Mandami la fotografia, lo voglio vedere. Va bene, dopo te la mando. Avanti qua. Chi è rimasto? Giuseppe, non c'è. Riccardino. No, Riccardino si è allontanato un attimo. Già torna dopo, sicuramente sta andando a fare merenda. Kappa, io adesso piano lontano vado a farmi la doccetta. Prima di rilassarmi un po', dai, mi faccio una doccia che sono andato a fare quattro passi con calma, per aggaggio, c'era quel vento qua, poi invece di scirocco questo. E scirocco sì, infatti, adesso ha caricato bene, nelle raffiche da 60-70 km/h, allora domani è lunedì, inizia il temporale, mi fa l'aria, acqua sporca. Via. E vai la bella macchina, da cui una ricca che mi ha fatto tutta quella qua sporca, me l'ha fatta tutta qua. No, io sto aspettando che hai la sporca la mia. Dentro già va bene, ma fuori quasi gaga. Sto aspettando appunto che vada via questo vento così, poi la porto e me la faccio lavare a mio genere, tutta igienizzare, e rimane pulita. Però intanto se la lavi adesso, lunedì te la vasi a beffa, o domani, perché ha dato acqua. Acqua è temporale almeno per un paio di giorni. Benissimo, siamo tornati all'inverno. A me Claudio c'è un albero dove io ho il posto macchina, cazzo, e fa scendere la resina, ma la sta riempendo tutta di quella resina a puntini, me la sta facendo, già ne esce perché ne esce, ma è troppo in palle, appena l'ho lavata, cazzo, l'ho messa lì, cittadino in QRX e Eugenio non c'è più. No, Eugenio se n'è andato, aveva detto che doveva andare via. Si è rimasto solo. No, non sono qua. No, beh, io lo stacco attimo, vado a fare una doccetta veloce e poi rientro. Anch'io. Ehi, aspetta, a me che sono al telefono. Tony, lo senti Antonello Barracuda? Tony, è tutto in Parigi. Chi c'è rimasto qua? Aspetta un attimo, Tony. Attenzione su canale 10, canale 10, c'è qualcuno interrogativo? Buonasera Barracuda, qui Lupo Grigio, operatore Nicola, zona Cappuccini, cambio. Io sto modulando con un portatile, tu come mi ricevi, cambio? Mi puoi dire molto approssimativamente il tuo QTH, cambio? Caspita, quindi tu mi confermi Ossi, giusto? Ma ti confermo, io nel portatilino non ho, diciamo, lo smitter, però diciamo che abbastanza bene. Comunque ci deve essere propagazione questa sera, perché non mi sento una sassa, ripenso un po' a Ossi, cambi. Guarda, ci deve essere molto propagazione, perché ad esempio a Giulio che ha dei punti non riesco a sentirlo, all'amico di Porto Torres neanche a parlarne, Massimiliano mi sembra che si chiami, cambio. Il fatto che prima ero in movimento, adesso mi sono fermato nel terrazzo del mio palazzo, ma ripeto, comunque dove abito io sono circondato da palazzi, quindi deve essere un caso eccezionale questa sera, cambio. No, guarda, io prima ti sentivo nei giorni scorsi parlare con gli amici di Sassari, ma tu non mi sentivi. Oh, probabilmente hai un'ottima antenna. Che antenna hai, cambio? Ma ti confermo che, ripeto, io ho un portatile ed è un Alan 42DS. L'unica cosa che originariamente avevo un antennino di 20 cm, ma io adesso gli ho comprato un'antenna sempre per questo apparato di 50 cm, ma sempre un'antenna da portatile. Se tu mi riesci a ascoltare vuol dire che la tua antenna è ottima, cambia. Ma se non ho capito male, una V rovesciata, interrogativo. Dico, un dipolo con la V rovesciata, ho capito male? Bene, bene, magari probabilmente il polo caldo è verso Sassari. Ebbene, dunque, ho approfondito un attimo la faccenda. Dunque, da 3 MHz a 30 MHz sono le HF, che comunque la ionosfera si riflette, quindi non è necessario che le antenne si vedano, quindi probabilmente tramite la ionosfera che le riflettono riusciamo a parlarci tanto. Guarda, se mi dici che un dipolo è ottimo, guarda, è una cosa bellissima. Io purtroppo devo modulare dal terrazzo del palazzo, che è un palazzo di 5 piani, perché dal poggiolo mio non riesco a raggiungere nessuno, ma ho anche difficoltà, ho provato a montare una boomerang da 3 metri nel poggiolo mio, ma essendo circondato da palazzi praticamente non ho risolto quasi nulla, capito? Ma presumo che tu abiti in campagna, giusto? Diciamo in campagna, sì, anche in campagna, come non sta, perché è stata grande, per non stare, perché è stata grande, ma ora poi la direzione di una foto, che è stata fatta, perché è stata fatta, perché è stata fatta, perché è stata fatta, perché è stata fatta, perché è stata fatta, perché è stata fatta, perché è stata fatta, perché è stata fatta, perché è stata fatta, perché è stata fatta, perché è stata fatta, perché è stata fatta, perché è stata fatta, perché è stata fatta, perché è stata fatta, perché è stata fatta, perché è stata fatta, perché è stata fatta, perché è stata fatta, perché è stata fatta, perché è stata fatta, perché è stata fatta, perché è stata fatta, perché è stata fatta, perché è stata fatta, perché è stata fatta, perché è stata fatta, perché è stata fatta, perché è stata fatta, perché è stata fatta, perché è stata fatta, perché è stata fatta, perché è stata fatta, perché è stata fatta, perché è stata fatta, perché è stata fatta, perché è stata fatta, perché è stata fatta, perché è stata fatta, perché è stata fatta, perché è stata fatta, perché è stata fatta, tubo, ma quindi tu a Sassari riesci a parlare con tutti i campi? Bene, bene, bene, invece con Porto Torres e Alghero? Io vado con 4 watt, almeno nominali, nel manuale di istruzione. Praticamente questo portatilino dovrebbe uscire con 4 watt. Tu invece hai sempre 4 watt o posso uscire in più, Carlo? Va bene, dai, parlo, vediamo come ti dicevo, Carlo. Beh, effettivamente sei calato un poco, quindi magari vieni rimettiti come eri prima, che ti copri benissimo. Sì, riesco a capire benissimo, un po' diciamo più basso di prima, però riesco tranquillamente a copiarti. Beh, se tu mi dici che stai in un posto, comunque il fatto che con un portatile, con un antennino in gomma, riusciamo a dialogare è molto, Ma l'hai costruita tu, interrogativo? Ma cos'è, diciamo lunga in totale 11 metri, interrogativo? Allora, Smart, me lo ripeti che adesso poi lo controllo su internet, campo? Bene, bene, devo controllare una cosa. Io sto cercando per il portatilino un'antenna a nastro di quella 10 euro, non so, tipo nastro, tipo metro in alluminio, lunga, non so se questa ditta la fa, tu ne sai niente, campo? Vorrei cercare da qualche parte un'antenna a nastro, l'hai presente i metri in nastro metallico, quelli che si piegano? Un'antenna del genere per il mio portatile, campo? Sì, ma io veramente sarei orientato di procurare anche comprarmi un veicolare da usare sia in macchina che come stazione fissa, ma adesso appena possiamo uscire tranquillamente cercherò di acquistarlo. Bene, bene, bene, io ti ringrazio, poi quando torno a casa controllo. Comunque, e invece cosa ne pensi di un apparato con le SSD? Bene, bene, senti, ti chiedo un attimo scusa, mi sta spinando il cellulare, un attimo di pausa e riprendo tutto. Eccomi, ci sei ancora? Ossi, ci sei ancora? Magari facciamo una chiamata generale, vediamo se c'è qualche altro. Attenzione canale 10, attenzione canale 10, chi c'è interrogativo? Non c'è nessuno, strano, perché fino a qualche momento fa sentivo altre, cioè fino alla mezz'oretta fa il canale era pieno, campo. Ma lo senti anche quel ragazzo a 21, Riccardino, campo? Io dunque ero in ascolto e se non ho capito male ha cambiato antenna. Non ho capito che antenna ha messo, ma da quando ha messo questa nuova antenna praticamente arriva ovunque. Ma fa piacere che un ragazzo, adesso credo che abbia 13 o 14 anni, una cosa del genere, si stia affezionando alla CP. Perché ormai la CD prima del coronavirus era praticamente abbandonata. Io spero che anche quando tutto si normalizza non venga più abbandonata. Io adesso ho 60 anni, ma quando ne avevo 17-18 mi ricordo che sui 34 canali erano tutti occupati e per entrare in ruota bisognava fare anche il turno. Eh beh sì, anche... Attento Antonello! esiste WhatsApp, esistono tutte queste cose strane, esiste quell'app della Midland che simula un CD, però come dico sempre io, la radio è la radio. Qualunque cosa succede, un terremoto, chi sposta le antenne, delle telefonie, con la radio parte sempre. Ciao Antonello, buonasera, ben ascoltato. Ciao Nicola, ti sento? Stasera ti sento, la frequenza è pulita, non c'è molto QRM, per cui riesco a tirarti fuori, anche se ho dovuto mettere le cuffie, però riesco ad ascoltare quello che dici. Avanti Antonello. Registrato break, un attimo. Ok. Avanti, Nicola, fai entrare tu Riccardino. Bene, bene Giulio, comunque sto parlando con Ossi meravigliosamente. Va bene, Riccardino, sono Nicola, se mi copi avanti, cambio. Ciao Nicola, ti sento benissimo, che cosa hai fatto? Comunque ciao a tutti. No, io non ho fatto nulla, evidentemente c'è la propagazione. Tu hai cambiato antenna, se non ho capito male, cambia. Positivo, sì, ho cambiato antenna, ho messo una Sirio Blizzard 2700, sostituto un po' della Mantova. Mi sento forte e chiaro, comunque oggi ci deve essere propagazione, perché riesco a parlare anche con Ossi, cambio. Sì, oggi c'è propagazione, stasera abbiamo collegato Spagna, adesso è calato un po'. Bene, bene, allora giriamo il mic a Giulio, vai tu, cambio. Ok, Nico, sì, no, propagazione per la Sardegna non è così importante, quello che importa è l'antenna, dai. Ma stasera ti sento, ti sento, ho con le cuffie, ma ti sento, anche perché, come ho detto poc'anzi, la frequenza è pulita, non c'è interferenza, non c'è niente. Va bene, avanti Antonello. Sì Antonello, no, il Pusano è aperto, è già aperto da un po' di giorni, per cui non c'è problema. Beccatron, penso che aprirà sicuramente lunedì, per cui sarà la possibilità di comprare anche la canna da pesca. Bene, bene, va bene, dai, autocostruisciti l'antenna, così vedrai che arrivi molto meglio anche qua a Sassari. Ok, avanti Nicola. Giulio, io adesso provo a spostarmi un attimino di posizione e vediamo se mi copri meglio, un attimino solo, eh. Antonello, Santiago 5 qua, Santiago 5. Brecco. Ok, ciao Roberto. Sì, un attimo. Sì, beh, certo, Antonello, certo non sei ai tuoi livelli di prima, però diciamo che bene o male già ti fai sentire, dai. Avanti Roberto. Sì, ciao Giulio, ho fatto ascolto, ho appena acceso, ho sentito a te Antonello di sfuggita e poi mi è sembrato Nicola, c'è qualche altro? Riccardino, sì, Nicola non lo so cosa ha fatto, perché oggi riesco ad ascoltarlo, non so se è per effetto della frequenza che non è carica di QRM, questo non lo so, ma suppongo che abbia sempre lo stesso apparato, cioè il portatile, non lo so, ce lo dirà lui dopo. Va bene, avanti Riccardo. Ok, ciao Roberto, cambio per Antonello. Ciao Riccardo, Antonello ti ha rilanciato Riccardo, non so se l'hai ascoltato, avanti Antonello. Già ti ascolto Antonello, ti avevo rilanciato per salutare a Roberto, se non l'avevo già salutato. A chi senti più basso? No, l'ha restituito l'MB più 4 perché c'erano dei problemi, era un po' rovinato, nuovo però gli ha dato un po' rovinato, adesso sta uscendo col mio microfono palmare. Il segnale è migliorato tantissimo comunque dalle parti tue, immagino. Lo segnale è 9 più 10 comunque, ho chiesto dei controlli, ho sentito che ha chiesto dei controlli. Ok, vediamo se Nicola c'è ancora. Si conferma, ci sono ancora, ti saluto caro Roberto. Se mi permetti, gradirei sapere se Giulio... radio adesso mi riceve perché ho cambiato posizione, cambio. Sì, ti sento lo stesso, però più basso, Nico, ti sento basso, sempre basso ti sento, ho le cuffie, se no forse non ce la farei, se tolgo le cuffie probabilmente non ce la faccio a sentirti. Devi provvedere a mettere l'antenna, non si può così, Nico, è troppo, perché basta che ci sollevo un attimino il QRM e poi non ti sento più, Va bene, comunque per il momento ti sto ascoltando, non c'è problema. Avanti, riprendi ancora e fai girare tu dopo, vai. Bene, grazie, rilancio il mic a Roberto. Comunque Roberto, questa sera riesco a parlare con Ossi, mai successo, cambia. Diciamo, ti ascolto più forte del solito, sei 9 più 15, non so cosa hai fatto, ma hai messo un'antenna diversa, cosa hai fatto? No, negativo, non ho fatto nulla se non caricare la batteria al piombo, cambio. No, segnale forte, 9 più 15, radio 5, perfetta. Ti rilancio Antonello Barracuda, che lui è un po' più lontano di tutti, e vediamo come ti ascolta. Avanti Antonello. Ok, mette il casino quanto ti arriva, per curiosità, Antonello. 1, 2, 3, prova, 1, 2, 3, prova radio. Se comunque, vabbè, quasi quasi, il segnale mi supera un po' grigio. No, Riccardino, non ti passa nessuno, a te sei 9 più 20 tu, dalle mie zone arrivi molto forte. Solo 5 arriva il segnale di Riccardo, strano, pensavo arrivasse più forte, ma magari è una collinetta un po' nascosta per te. Aspetta. E io come ti arrivo, caro? Scusate, l'interruzione, sto cucinando, vai Robè, sono in Quarix. Ma dove sei? Di te l'hai tu, Antonio? No, sono... Allora, tu stai arrivando 9 più 10, io come ti arrivo? Ok, va bene, vai Giulio, riprenditi il mic. Ok, ciao Marco, ben entrato, tu sempre pensando a mangiare, ma chi te lo fa fare a mangiare? Poi ti appesantisci e lascia perdere, no? Non mangiare, tanto ormai sei abituato, no? va bene, dai, stiamo bene ugualmente. Vai Marco, fatti sentire almeno con qualche parola in più, hai detto solo tre parole contatte. Marco parla la notte, che è un coso, un ottambulo. Sai cos'è? Allora, niente bacco, niente tabacco, niente venere, e fatemi almeno mangiare, no? Ehi, va bene, quello sì, ma una volta ogni tanto però, non prendere con l'abitudine di mangiare sempre, una volta ogni tanto almeno. Dai Nicola. Guardate, non parlate di mangiare perché io sono nato 5 kg e mezzo, quindi povera mamma mia, e mi sto tenendo un attimino a dieta, ma se bevo un bicchiere d'acqua in più prendo peso, cambio. Io con questa scusa della quarantena, qualche chilo ho ingrassato, qualche chilo, e dunque dovrei pensare a buttarlo giù di nuovo, perché ho ingrassato 3 kg e mezzo, ho ingrassato, ma è chiaro che uno non rimane a casa, non si muove, non potevo uscire, per cui un po' di peso si mette su, è ovvio, questo è normale. E pensare che ho mangiato sempre allo stesso modo, cioè 3 volte al giorno io mangio, colazione, pranzo e cena, basta, ma nemmeno un merenda qualche volta, ma raramente proprio, perché sennò io non sono nemmeno esagerato mangiando, però essendo sempre così a riposo, senza muoverti, non bruci calorie e dunque il peso si aggiunge, niente da fare. Avanti Robert. Una interrogazione, come radio stai utilizzando, Giulio? Stavo usando quello di stamattina, quello che avevo stamattina. Con lo stesso microfono? Sì, lo stesso microfono. Oh, qui sembra più forte la radio. No, è uguale, è sempre l'MB4 messo con quello di stamattina, insomma, ecco, lo stesso barattino di stamattina. Oh vabbè, c'è da dire che adesso ho alzato un po' il volume dell'apparato, per cui se la quando aumentano quelli da bombardamento, tu sei più forte di tutti in radio, perché gli altri sono tutti i microfoni un pochettino meno potenti. No, ti ascolto perfettamente, però pensavo che magari avresti preso un altro microfono, un'altra cosa. No, assolutamente, anzi l'ho ritirato, quello suo. Ti bombardo io, bene a te. O meglio, dell'accoppiamento originale. Mica, le mine vagando. L'MB4, come mi avete detto questa mattina, andava molto bene, per cui, anzi, gli andava addirittura meglio, e allora l'ho lasciato, adesso uso per un po' di tempo, uso questo. Ti bombardo io a te, bene, sei bombardato, sì, Ciscio, sempre un kit radio, bombarda, tanto non ce la fai a farmela abbassare la radio, sempre questa è. Ciao Nicola, ciao a tutti, comunque buonasera. Guarda, io vengo a casa tua, Claudio, vengo con una di quelle fascette in plastica e ti stringo il microfono, e sai dire? Guarda, anche se tu mi stringi il microfono, io uso il corno a senso contrario, riesco uguale. Tu ti muovi alla finestra, ti muovi a bordo e ti sento da lì, tutto sassa. Io, sì, Antonio, vai benissimo, dai, 5-9, quasi più 20, sei quando dai un po' più di potenza. Altrimenti il tuo segnale 5-9-10, ma va benissimo la grande. Nicola è sopra il tetto, per quello che lo sentite, altrimenti qua mi sparisce a me quando si mette a passeggiare. Porca miseria, che non ci sia una soluzione a montare un'antenna lì, non ci voglio credere, Nicola. Diciamo sul tetto per adesso no. Finché non si risolvono certi problemi, ho montato l'antenna mezza soffranco nel fogliolo, gli ho fatto le prove ma non ho migliorato più niente. Tanto, tanto. Perché quell'antenna non serve o è montata male? Sono due sempre le cose, o non serve o è montata male. Capito? Perché le antenne esterne c'è sempre un lieve miglioramento, è impossibile che non ci sia. Quindi, non lo so, bisogna verificare, va bene, comunque. Io ti ho sentito, arrivi segnale 6-5-6 con quell'antenna che hai montato, mentre con questa mi stai arrivando 9, però sei sul tetto sicuramente, non sei giù a terra, capito? O a casa, se no io da casa non ti sento, proprio sparisci completamente. Avanti Riccardo. Ok, grazie Claudio. Sì, anch'io lo sento meglio, è perché sul tetto. Ma confermi che stai usando la boomerang? Riccardo, se parli con me negativo, sto usando l'antenna di gomma del portatile, canto. No, perché pensavo che stavi usando la boomerang, perché arrivi a tutti, sono arrivato così forte con l'antenna. Hai portato la boomerang più forte o uguale? Ma io penso di meno perché la monto nel poggiolo di casa, io abito al secondo piano su un palazzo di 5 piani, quindi non credo che migliori più di tanto. Perché adesso dal tetto vedo praticamente tutta la città. Ma comunque mi ricevi bene perché hai cambiato anche antenna tu, cambi. Ricca, avvicinati il microfono alla bocca. Sì, mi ero abituata alle MV5 che mi dovevo allontanare pure al microfono e adesso che l'ho riportato via me ne sono dimenticata, sì, adesso sono vicino. Ehi, così va più bene. Mi MV5, perché c'è l'MV5? No, ho detto, mi ero abituata all'MV5 come era arrivato e invece adesso che l'ho restituito mi ero abituato a stare lontano al microfono con l'MV5 e adesso devo stare vicino finché non mi arriva. Ah, ho capito, pensavo che ti fosse arrivato il microfono, infatti non lo sapevo. E migliori tantissimo la radio, perché se no troppo lontano facciamo un po' di fatica, perché gli altri sono troppo alti e ti schiacciano. Poi ne uno qua vicino pericoloso, bisogna stare attenti, dai. Vai, qua. Domani Giulio provo. Domani mattina mi devo vedere con Gianfranco e me lo deve dare. Devo solo darle una pulitina. Domani mattina col K provo il turner più 2 da tavolo, perché c'è il connettore che ho capito. Devo mettere la batteria e provarlo. grande microfono quello, degli anni 70, ultimo microfono veramente, quello dovrebbe funzionare alla grande, dovrebbe, anzi sicuramente funzionerà alla grande, questo è ovvio. Intanto sto incominciando a sentire di meno Nicola, perché poc'anzi c'era una bordata di QRM di propagazione che è arrivata qua e sto incominciando a sentirlo quasi niente, però piano piano magari, ecco, sono con le cuffie, infatti sono sempre con le dita sul potenziometro del volume, in modo che quando parla lui aumento e quando parlate voi devo abbassare, se no mi spaccate le orecchie, ovviamente, ma è così, è normale, purtroppo è così, vabbè dai, non fa niente. Cosa volevo dirti? Ah, un'ambasciata da parte di Sandro Tigre, poc'anzi ci siamo sentiti al telefono e mi ha incaricato di salutare tutti quanti, tutti i CB di Sassari e dintorni. Era fuori, per cui mi ha mandato uno schemino che poi te lo mando anche, uno schemino riguardante la corrente elettrostatica di vecchio stampo, ma sicuramente è molto molto importante, magari non troppo oggi perché oggi le antenne sono tutte cose circuitate. Dopo ti mando lo schemino, ok? Avanti, a chi tocca? Antonello, vai. Ma l'ha già mandato anche a me, Giulio. Ah, ok, bene, bene. Allora, se stai chiedendo a me, perché io sto usando l'MB4, questo non te lo so dire. Io ho tutto un sistema mio personale, come installare l'MB4. Faccio uno spezzone, faccio, e poi con i fili sbucciati, diciamo, non faccio altro che infilare dentro lo sinotto e i vari fili, lo sinotto dell'MB4, e trovo il collegamento in 5 minuti. Cioè, in poche parole, spezzone collegato al baracchino, con il suo sinotto originale che deve entrare nel baracchino, l'altra parte, i cavi devono essere spelati, e io infilo quei cavi lì, quei 4 cavi, 4 puli, lo infilo dentro lo sinotto del microfono dell'MB4, e scambiando mi trovo subito la posizione come devono essere poi saldati, cioè ho saldato lo spinotto, tutto lì, io ho quel sistema da sempre. Va bene, dai, avanti Roberto. Sì, diciamo così, è all'antica, dai, non sbagli, se no col tetra lo fai e vedi dove c'è continuità, dove stacca, vedi con l'interruttore, diciamo, col PTT e te ne accorgi, dai. Il problema è quando ci sono apparati tipo gli HF, lì devi stare un po' attento, perché lì ci sono anche le alimentazioni, bisogna stare molto ma molto attenti. L'ha spiegato bene Giulio, che lui è riuscito a farlo funzionare con l'alimentazione sua, l'MB4, qualcuno utilizza l'alimentazione dell'apparato, comunque tutto si può fare, basta stare un po' attenti a non fare danno. Dimmi Claudio. Ho detto, ma quello schema che ho fatto io è del Turner più 2? Sì, del Turner più 2. Ok, lunedì poi me lo ridai di nuovo, che non si sa mai che ci sia da controllare qualcosa in quel Turner, così c'è lo schema. Assolutamente, c'ho un'officina, a me sono indicato stamattina, sono lavorato stamattina, c'ho dove c'ho il computer, ho detto la cosa del computer. Ecco. Ecco, va bene, visto che non ti serve, lo tengo io, poi se serve chiaramente ce l'ho. Avanti, Beh. Ciao Fabrizio, sto provando questa radio, probabilmente ha qualche problema, mi hanno detto, volevo sapere come ascoltate la radio. Sì, canale. Registrato il becco, un attimino, senza spingere, ciao Fabri, sì, conosco la radio, abbiamo già contattato il problema. Con chi te la dà? Tu satura Fabri, è una radio satura, non si capisce, a primo impatto sembra che vada bene e poi inizia a saturare questa radio, non lo so, è satura. Ascolta, ma questo Mickey Gang, che cavolo di funzione c'ha questo tastino? Prova a inserirlo, disinserirlo. Allora, così inserito, 1, 2, 3, prova, e così disinserito, 1, 2, 3, prova. Secondo me è una modifica, Fabri, poi te ne accorgerai tu, vedendolo, perché quando lo inserisci satura ancora di più, quando lo disinserisci è meno satura, che non sia un tastino di potenza, qualcosa, non lo so, l'altro giorno stavamo facendo le prove con continuo. All'inizio era spettacolare, gli ha collegato il microfono ed era una favola. Poi ha iniziato piano piano a andare sciatola. Comunque in questo momento io ho la modulazione sciatola, perché mi pare nel Lincoln non si può regolare niente, a quanto mi sembra, devo dare un'occhiatina. Sì, ma sciatola Fabio, mi sembra che stai usando un amplificatore con un ingresso esagerato, ho capito, una cosa del genere. Si capisce la modulazione, però è sciatola. Va bene, passi in ascolto e do un'occhiata se vedo qualcosa sullo schema e poi magari riprovo dopo, dai. Audio. Ehi Fabio, siamo qua, quando vuoi intervieni, siamo qua anche per questo. Ok, c'è un qualcuno che ha chiamato, un break da sotto, vediamo chi è avanti. Ah Luca, sono qua da un controllo, come sto uscendo? No. Quanto è uscendo? Siamo dentro una chiesa. Luca, sto uscendo, stai entrando, a posto. Sì, non ho capito quello che hai detto, wow, sì che stai uscendo. Stai uscendo, Luca, Santiago 7, la radio non te la do perché è da schifo, non ti offendere, è tutta confusa, non ho capito niente. Riccardo, vieni avanti e fai girare, dai. Cosa? Oddio, adesso com'è? Adesso va bene. Ok, ma sei nel campo, no, sei a trappi, un po' arrivi, un po' non arrivi. Ok, dai, ciao, grazie. E avanti, Riccardino. Non ho capito chi era, lo ascoltavo 7, però non ho capito chi era, Luca l'hai chiamato, così il clan. Sì, Luca manicomio, sta provando un baracchino sicuramente a casa della ragazza. Ecco. Riccardino non ha ripreso, ora con vostro permesso faccio entrare il break, avanti il break e fai girare. Ehi, ciao Claudio, vi sentite in compagnia mia di Claudio, di Giulio, Riccardino che in questo momento era assente, e poi chi c'era? Boh, non me ne ricordo altri. Ah, Antonello da Ossi, rilanciamo Antonello che è un po' più lontano, e poi Giulio riprenderà il mic. Avanti Antonello per Claudio. Antonello ha detto che si è allontanato per sistemare il microfono, vai giù. Ok, sì, io riprendo, rimango un attimo in QRX, che sto seguendo il telegiornale, a quest'ora io lo guardo sempre, bigliolina, e rientro dopo con un break. Avanti Nicola. Breco. Avanti il breco. Ciao, vediamo un attimino se senti qualche differenza adesso, Claudio, fai il favore. No, se ti vuoi spostare, sul 20 ci spostiamo, Fabri, come vuoi, però non c'è nessuna differenza. Vabbè, vai sul 20, io voglio fare prima una prova. Sì, scusate un attimo, mi sposto al 20. Avanti il break, c'era anche Nicola comunque, Claudio da Muro, se mi sono dimenticato di Nicola. Avanti, doppio ruolo. Ehi, allora, buonasera a tutti, da sono rientrato. Che ci sia, comunque saluto tutti cordialmente, avanti. Dai, faccio un promemoria io, allora c'è Claudio De Amuro, su Claudio torre di controllo, adesso si è spostato con Fabrizio canale 20, c'è Giulio, Riccardino, Antonello da Ossi e poi c'è la Luca, sta facendo delle prove, l'ho sentito di sfuggita e poi basta, non mi sembra che ci sia nessun altro. Nicola te l'ho nominato, dai, facciamo riprendere Antonello da Itri, sei rientrato, se no riprendi tu Claudio, fai Claudio e poi Riccardino. Ciao anche a te, mi hai sentito, dai, è un piacere sempre sentirti. No, io mi sono fatto la camminata col cane e poi sono andato, mi sono fatto la doccia, adesso mi sono tutto bello rifrescato. Ehi, aspetta, facciamo vedere un attimino se c'è Riccardino, se no riprende Giulio. Vai Riccardo, cosa ci ha rotenato? Vai Giulio. Sì Giulio, l'ho visto quello schema. Bisogna vedere se è ancora funzionante, diciamo, per le antenne non cortocircuitate. Giulio, guardaci il telegiornale. È andato? A vedere il telegiornale. Ah, io non l'ho manco sentito, figura. Ok, Antonello Barracuda è andato a provare un altro apparato, che è rimasto, boh, viene la di gente, adesso si sono tutti spostati. Ok, riprendi tu allora, Gianni. Ho sentito che è rientrato il lupo grigio, ero anche preoccupato, lupo grigio, come mai non sarei più entrato? Perché la mia gentile signora mi ha costretto a fare enormi passeggiate, Gianni. Ah, ecco. Sei succube tu? Ma penso come tutti i mariti, o almeno la maggior parte, capito? Cava, no, sto scherzando, dai. Vabbè, dai, ti potevi portare l'apparato quando passeggiavi con lì modulato. E questo hai ragione. Una cosa volevo dire, mentre un'oretta fa ero in quel rischio in ascolto, non ricordo chi è stato, qualcuno ha parlato che lunedì c'è all'età medio, ne sapete qualcosa, Carlo? Sì, lunedì piove, ma l'età meteo non ne ho sentito. Lunedì martedì è prevista pioggia, ma non di grande intensità. Adesso ricontrollo per sicurezza. Pioggia c'è, ha messo pioggia e basta. Niente da gradire la notte, dai. Comunque Gianni Dr. Room, sono riuscito a parlare con Ozzi e ti ho parlato anche bene, cambio. Ti stavo ascoltando, ero in ascolto perché stavo, mentre voi parlavate mi stavo cucendo una maglietta, dai. E quindi vi ho ascoltato, dai, vi stavo ascoltando da poco fa. Non sono entrato perché poi non riesco a fare le cose che devo fare, quindi ho preferito ascoltarvi e fare ciò che stavo facendo. Scusa un attimino il telefono. Comunque la pioggia la fa forte martedì, il lunedì piove, però forte prevista per coso, temporali grandi ne sono previsti per martedì. Avete a meteo, almeno fino a lunedì non c'è niente, perché io c'ho un sito dove mi controllo tutto, non ce n'è per il momento. Ci vediamo domani, così se ce l'ha per martedì. Se martedì c'è grandine, ecco, comunque a Milano, io ho mio fratello che abita a Milano, anche questa ci voleva, i due fiumi sono esondati e hanno allagato, capito? Addirittura, di lì nella territoria bisogna stare attenti, soprattutto in Liguria, io ho amici a Genova, ho visto delle cose con l'acqua spaventose, e la Piana della Padana, diciamo, anche lì il po' bisogna stare un po' attenti, però lì in Liguria insomma, arrivano delle miliardi di tonnellate di acqua dalle montagne e scaricano, c'hanno dei fiumiciattoli, però quando iniziano a allagare, a uscire a esondare, allagano la città, ho visto dei danni voracini, spaventose. Comunque Roberto, io comincio a credere effettivamente nello zono e a tutte queste cose, perché io in 60 anni che ho disastri del genere non ne ho mai visto, addirittura trombe d'aria tipo quelle che si vede nei film americani, ma quando mai in Italia ci sono quei vortici di trombe d'aria? E vabbè, c'è da dire che il polo magnetico si è spostato di qualche grado, per cui le perturbazioni adesso fanno un giro leggermente diverso, zone che prima erano diciamo più coperte per le perturbazioni, adesso io ho la paura mia, io sto aspettando e speriamo che non si avveri tutto il problema che c'è stato in Australia, quell'evaporazione enorme di acqua, perché da qualche parte deve scaricare adesso, e ho paura che c'è il rischio che quest'estate ci siano dei temporali molto molto pericolosi, perché tutto il fuoco che successo con gli incendi che hanno fatto devastazioni in Australia, da qualche parte devono scaricare, ed è come logica di rotazione terrestre, da qualche parte va a finire nelle zone europee con la roba. Certo. Prego, scusate un attimo, mi ero allontanato, stavate parlando e non si vuole fare. Ci mancherebbe, Riccardi, tieni sempre i mic vicino. Comunque io, come ascolto oggi a Nicola, Nico, mai sentito 9 più 15, normalmente eri 9, qualche volta 9 e 5, oggi sei 9 più 15, radio perfetta, chiara e limpida, recoaro, così dicevano una volta. Ok, a doppio rumo ci sei ancora o ti sei allontanato? Sì, mi senti? Chi sei lui? No, beh, me lo dà un controllo, come sto uscendo? Allora, di radio stai uscendo bene, il segnale 7 tendente all'8, la radio 3-4. Sì, là, sto provando un baracchino, là, Riccardino, mi senti? Sento, tutto chiaro. Sì, dai, a posto, lo sta graffiando. Vediamo un po', aspetta. Se c'è qualcosa, eccoci adesso. Così, eccoci, No, no, sta andando bene Luca, la radio non è 5, però è coso, già va bene, più che buona. Aspetta, io volevo far rientrare a Barracuda e poi se non c'è riprendi tu Claudio Lamuros, avanti Barracuda Antonello. Nulla, Claudio riprendete il mic. Io lo sento l'amico che sta parlando, lo sento mai, sicuramente non ci arrivo dove sta lui, a Muro. Comunque sono contento che almeno fino a oggi ci sono arrivato. Quindi hai fatto un collegamento senza bisogno di propagazione, in diretta da Ossi, dai. Considerando le condizioni è un evento più unico che raro, perché sinceramente è un'ottima cosa, dai. Considerando dove sei messo c'è un'antennina di gomma. Tenendo conto che l'amico di Ossi sta in un posto dove si è andato a capire. Comunque ho ricordato una cosa, ho preso il mio vecchio libro di elettronica, da 3 MHz a 30 MHz sono HF e le HF vengono riflesse dalla ionosfera, infatti hanno i salti di, diciamo, che diciamo la ionosfera fa saltellare queste onde. Quindi probabilmente questa sera Pagliano Spera riesce a mandare via le onde. Ma no, no, non è così. Diciamo, quel discorso è valido per lunghe distanze, non distanze così brevi. È troppo riflesso, cioè magari ti possono ascoltare, allora ti posso dire in continente, ma qua non, il discorso ionosferico non vale, siamo troppo vicini. Comunque anche tu mi confermi che da 3 MHz a 30 MHz si possono fare X distanti tramite la ionosfera, campo? Assolutamente, infatti diciamo i radioamatori quando fanno i collegamenti intercontinentali li fanno, utilizzano proprio quel così, ci sono delle giornate adatte, infatti guardano le cose solari, ci sono tante situazioni che ti permettono di fare dei collegamenti, ci sono dei periodi favorevoli per il sole, periodi tropicali, ci sono le bande tropicali che quando ci sono delle temperature alte e tropici permettono di fare i collegamenti. Normalmente le lunghe distanze, quelle intercontinentali, vengono fatte di notte, quando c'è più umidità nell'aria, le goccioline dell'aria permettono di fare, di coprire lunghe distanze anche agli antipodi, alle parti che diciamo dove non potrebbe mai arrivare in linea diretta il segnale. Quindi mi confermi che questa frequenza su propagazione di notte cambia? Sì, diciamo nelle bande basse, soprattutto nelle bande basse, le onde lunghe, ultralunghe, onde corte, sono favorite dalla notte, diciamo dall'umidità dell'aria, è un po' più complicato, infatti se inutili le stazioni broadcasting, diciamo quelle nazionali o internazionali, radio internazionali le ascolti meglio la notte che di giorno, a parte quelle che sono vicine, diciamo quei punti ripetitori vicini, tutte le altre, quelle a lunga distanza che vengono dalla Cina, dal coso, quelle le ascolti meglio di notte dove c'è propagazione, e sfruttano proprio la propagazione, orientano le antenne in certe direzioni e riescono a sfruttare la propagazione, ci sono proprio degli studi sulla propagazione, ci sono i beacon, ci sono delle frequenze campione che l'altro giorno abbiamo avuto discussioni, trasmettono ciclicamente a seconda del segnale come arriva, tu ti rendi conto se la propagazione sta aumentando o se è in diminuzione. Roger, mi ricevuto, che fa Roberto, vuoi mandare il mic a qualcun altro? Assolutamente, facciamo riprendere a Riccardino e poi a doppio rum se è rientrato. Sì, riprendo io, va bene, sono tornato subito, ho il discorso, ho sentito questa cosa, ho capito l'Australia dopo che ha bruciato, No, stavamo parlando di cambiamenti climatici. Cambiamenti climatici, io non è che ci credo più di tanto. Il discorso è ci sono delle cose naturali, degli eventi naturali che possono creare queste giornate magari più calde o degli inverni più freddi o più caldi. Sicuramente non è l'uomo proprio che interviene, o almeno se interviene, interviene in minima parte. Però stavamo parlando del discorso dell'Australia, ci sono stati quegli incendi che hanno coperto quasi totalmente il continente, hanno generato tantissimo calore, per cui c'è tanta evaporazione soprattutto marina e quando questa roba evapora a un certo punto deve scaricare, poi si incontrano le correnti fredde con quelle calde e si formano delle perturbazioni, dei tornado, dei temporali eccetera eccetera. Siccome la rotazione terrestre è sempre quello, questa roba c'è il rischio che arrivi anche in Europa e ti trovi magari un'estate ricco di piogge o di venti, di eventi strani, dai. La paura mia è quello lì. Ok, mi fa sorprendere Riccardo quando gli fa l'effetto ecco. Ok, come l'ascolti tu a Riccardo, Nicola? Ma guarda, io lo sento benissimo. Poi se avvicina il micro, il mic alla bocca lo sento proprio forte. Io in questi giorni, anche se non sono entrato, la sera sono in QRX, quindi io ricevo tutti, ma io trasmetto non mi ricevete, quindi ho saputo che ha cambiato antenna, quindi ed è quello che praticamente modula meglio di tutti. Sì, assolutamente, no, sono contento, infatti stiamo cercando nel limite delle nostre conoscenze dargli una mano, aiutarlo in tante cose, dai. È diventato la mascotte della frequenza, l'ho conosciuto in persona, il padre di vista lo conoscevo, comunque sono delle persone eccezionali, sia lui che il padre, ed è bello sentirli e parlarli, soprattutto quando vedere tanto entusiasmo di un ragazzino bambino che ha le prime armi, però ha imparato tantissimo in poco tempo, e quella è la cosa più bella. Cosa volevo dire, Nicola, forse ci ha ascoltato, infatti qualche volta ti ho nominato, ho detto Mazzano che Nicola non si sia più fatto sentire, pensavo, ho fatto anche un'osservazione, non so se l'ha ascoltata, speriamo che non si sia demoralizzato, ho detto, per il fatto dell'antenna che magari non era come le proprie aspettative, eccetera. Non so se tu avessi sentito il discorso, qualcuno aveva detto che è ripartito a Palermo da dei parenti e cose del genere, di lì un punto interrogativo me lo sono messo, ho detto ma un po' strano ritornare di lì con il discorso del coronavirus. Ok, ripeti il mic. No, non sono entrato perché, ripeto, sono uscito con mia moglie la fine sera, ci siamo disintossicati dalla clausura e salire sopra il terrazzo di notte non era il caso, però io a casa mia sento benissimo tutti voi che parlate, quindi non sono offeso, non sono demoralizzato e magari se potessi partire, magari, ancora ora non c'è nessun collegamento con la Sicilia. Sì, infatti anche io ne dubitavo, qualcuno ha detto che può andare via nave da Cagliari, sinceramente non so se sia attivo, Cagliari Palermo, è ancora attivo la tratta? Sì, parte normalmente una volta alla settimana. Però ripeto, adesso credo che siano anche bloccati i collegamenti tra le varie regioni. Addirittura c'è un'amica di mia sorella che è andata in gita a Barcellona ed è rimasta bloccata lì, sta piangendo che non riesce a rientrare. Ma speriamo che a giugno riesca a rientrare perché è ancora ferma lì in albergo. Ha detto ma questa è in Sicilia però deve rientrare. Sì, deve rientrare in Sicilia, ma non c'è nessun collegamento con l'estero. Infatti ci sono problemi anche per le compagnie aeree che hanno messo in cassa integrazione anche i piloti, che non ho mai sentito che un pilota va in cassa integrazione. Purtroppo siamo una situazione mai vista, neanche durante la guerra c'erano queste limitazioni. Comunque Barcellona Porto Torres è attivo il collegamento perché la settimana, diciamo verso mercoledì, è rientrata la nave e mi ha detto Eugenio era piena di gente, ma piena di macchine e di passeggeri. Infatti non riesco a capire come mai arriva tutta questa roba, questa gente, perché Eugenio lavora al porto, lui fa quegli scarichi degli autocarri, degli articolati, eccetera. Io direi adesso lasciare un attimino di bianco, facciamo rientrare, che scusami Claudio da Muros, che forse ho monopolizzato troppo, avanti a te. Ok Claudio, anche io oggi volevo andare a fare che c'era qualcuno sotto, avanti chi vuole entrare, ho visto una portante sotto, chi è avanti? Va bene, dai, forse qualcuno per errore o non lo so, dai, chi è rimasto qua? Facciamo un attimo di bianco, io faccio un riepilogo, c'è Claudio, Nicola, Riccardino, io, c'è qualcun altro nel frattempo che è rientrato? Adesso datemi 2 secondi di bianco e arrivo subito, riprendi Nicola per Riccardo e poi fate girare tra di voi. Roger, allora Riccardo, come mi stai ricevendo, cambio? Forte, 9.5, tipo di 5, due volte arrivi anche a 9.10, è una radio di 5. Molto bene, senti un po', con la scuola come siamo messi? Segui col computer, cambio? Ma mi ricordi che classe stai facendo, cambio? Sono in seconda. Ma seconda media, interrogativo? Sì, 5 K Roger. Bene, benissimo. Ricordami la zona da dove moduli, che non me lo ricordo in questo momento, cambio. È più alta, io praticamente da qui vedo tutta Sassari. Roger, ricevuto. Comunque questa sera i collegamenti mi hanno proprio soddisfatto tantissimo. Poi ho saputo che tu praticamente sei quello che arriva più forte di tutti gli altri, capito? Proprio vero, Roberto, cioè quelli che a lui arrivano più forte, però sono il più forte praticamente lontano, perché l'altro lontano per non